vestiti corretti, dalle allergie da lontananza, serotonina nei cassetti, per debellare ansie arrugginite, non ho spazio nel bagagliaio, per le nostre autopsie, per le nostre corsie preferenziali. Le macerie dei ricordi, ricordi gerani sul soffitto, psichedelia dei temporali, generiamo detriti col tuo incedere, i solitari passi, i solitari passi eterni. Postmoderna, come quando truccavi pareti come Padre Brecht, come quando ti dissi ti amo e tu eri già sorda, saliamo su una mongolfiera che odora di miniera per fare origami delle nostre lettere d'amore. Ho fatto di te opera postmoderna, come quando truccavi pareti come palpebre, quando ti dissi ti amo tu eri già solo. Saliamo su una